Davanti a me si apre un'altra scala, è ripida, scavata nella roccia viva e sembra condurci nelle viscere della terra. L'aria che sale è umida e fresca. Le luci illuminano strati di roccia sabbiosa e giallastra, compatta. Lungo le pareti affiorano nitidamente calchi di fossili, ombre di millenarie conchiglie. Il nostro viaggio nel tempo continua. Ora siamo immersi tra cumuli sabbiosi di litorali marini risalenti a 2 milioni di anni fa, quando la Puglia, come gran parte dell'Italia, non era ancora emersa dal mare, era ancora fondale del mare. Di quella vita acquatica si vedono le antichissime sedimentazioni.